Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare. Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Questo è un tempo molto pop, lo aspettavo da un bel po'. Ci mettiamo a raccontare quello che non vuoi sapere. E di nuovo tutti al funerale, con la gente che sta male. E l'agenzia funeraria riempie l'urna cineraria. TV, film ed ultimo ora, la serata si colora di notizie di moria e con qualche fesseria. Ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner. Non c'è ancora un coccodrillo. Questi conduttori li mandate un po' di fiori e state ad ascoltare, ma mandateli a scavare. Fuck the motherfucker, he's a fucking motherfucker. Fuck the motherfucker, fuck the fucking fucker. Fuck the motherfucker, he's a total fucking fucker. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucker. Fuck the motherfucker, fucking fuck the motherfucker. Facca madafacca, facca madafacca, per dare l'inizio a questo nuovo meraviglioso appuntamento con Pop Corner, che diventa Pop Corner, Coroner, anzi scusate, ma allo stesso tempo diventa pure Pop Corner. E quindi insomma è un momento veramente speciale. Abbiamo iniziato con questo suggerimento musicale che ci ha dato il nostro caro amico Luca S durante insomma le dirette delle orazioni della sera. Lui è Tim Minchin, The People Song, anzi no, The Pop Song, scusate, stavo proprio un po' rincoglionito, ma non fa niente. Con me c'è Marco Gualdi. Infatti, adesso è anche il momento di Ictus Corner, mi sembra, fra un po', quindi vi saluto, è stato bello vederci. Oh, ma a proposito, Vizzi, è successa una cosa, è morto il Papa. So, ma adesso ne parliamo, perché morto il Papa se ne fa un altro, e con noi c'è ovviamente l'autore, il creatore, il conduttore, il condottiero di Le Orazioni della Sera, Walter Sbano. Questa sera in veste di vaticanista. Vaticani, esperto. Esperto, beh sì, perché mi sono molto informato. Vaticanista. Buonasera, bentrovati a tutti. È come se ci fossimo lasciati 5 minuti fa. 5 minuti fa, esatto. È molto probabilmente è esattamente quello che è successo. E abbiamo anche un esperto, non soltanto di teologia, ma anche di religione applicata alla scienza medica, il nostro Carmine Puccio Console, che è morto. Sì, in effetti ero morto. Eri morto, vabbè. Per mantenere il tema della trasmissione. Esatto. Ma tu lo sai che è morto il Papa? No, veramente. No, e da mo dovevi dire, scusa. Aspetta. Ma stiamo parlando di Wojtyła, no? Sì, esatto. No, ma anche Ratzinger nel frattempo è morto. Scusate. Ti puoi distrarre un attimo. No, non ti puoi assolutamente distrarre. Non devi, perché è importante essere a conoscenza del fatto che sta spingendo cose a caso. No, il mixer della radio è stato impossessato da Papa Francesco, che si sta ribellando a questa trasmissione. Ecco, abbiamo ripristinato tutto. Abbiamo esorcizzato il Papa stasera in diretta. Perché YouTube se ne andava i cazzi suoi. Esatto. Ok. E io ho spinto un pulsante che non dovevo spingere, però fa parte, insomma, del. Diciamo, perché dice che succedevano le stesse cose al nostro pontefice poco prima, insomma. Cioè, gli spingevano i bottoni. Non era lui che spingeva bottoni a caso, e perché poi, non aveva più la cognizione. Insomma, va bene, ragazzi, questa puntata Che è un po' quello che fa Trump normalmente. Sì, ma è quello anche che faccio io. Però no, insomma, okay, diciamo, è pure Svano qualche volta, devo dire la verità. Pure lui quando sta in trasmissione tanto. Ci sono delle serate che mi vengono proprio gli spasmi alla mano, premo tasti a caso, che poi sono cicciotti, non è tipo, eppure riesco a premere quello più a destra, quello più a sinistra. Succede. Ma lo sai che un suggerimento che diamo alla Road per il prossimo futuro, per i prossimi mixer, anche se sarà ovviamente inutile perché loro tendono a miniaturizzare. Esatto, invece loro dovevano estenderlo, perché questi pulsanti sarebbe bello, tipo quelli là, cioè presente il gioco quello del coniglio che tu gli devi dare capocciate, quello che esce dal buco, no? La tavola. Devi dare le martellate, non le capocciate. Le capocciate è brutto. Io ho detto le martellate. No, le capocciate. No, va bene. Però le martellate sulla capoccia e le capocciate. Vabbè, ma ci sta. Tutto a posto. Dentro questa fine serata morirà qualcuno. Indovinate chi? Stavo pensando alla faccia del gestore della sala giochi mentre qualcuno dà le testate al. Perché secondo te non è mai successa una cosa del genere? Sicuro. Sentite ragazzi, io però vi devo dire una cosa, l'ho letta proprio in questo momento, non so se è un fake, ma è tornato indietro. Diciamo che potrebbe essere l'ultimo dei nostri problemi, perché entro poche settimane il governo britannico darà il via libera agli esperimenti volti ad attenuare la luce solare per combattere il global warming. Ah ok, vabbè, che problema ci sta? Praticamente ci stiamo dirigendo a grandi passi verso la fine del mondo. Verso Matrix, è così che funziona. Certo, era per un altro scopo, ma abbassare la luminosità. Come tendono a abbassare la luminosità? Cioè, stendono un velo pietoso su tutta la Gran Bretagna o decidono di fare una cosa? Su tutto il mondo. Su tutto il mondo. Hanno comprato dei Ray-Ban molto grossi. Ah, ok. Oppure secondo me hanno dato dei soldi e maschere perché metta ancora più satelliti in orbita e copra tutta quanta la luce, probabilmente anche quello. Non lo so, ma sono curioso, sono molto curioso. Vabbè, loro si stanno preparando alla prossima elezione del Papa Nero. Ok, quindi loro sanno che quello che è successo darà il via a un innesco al quale loro devono dare un seguito, perché sennò poi dopo la profezia non... Ma quelli sono anglicani, cazzo gliene frega loro il Papa. Vabbè, però sai che tutto fa brodo, cioè nel senso ogni pretesto è buono. Sono anche i cani sono loro, cioè perché devi... Sono un po' angli e un po' Manco i cani. Come dicono gli inglesi, I missed the dogs. Vabbè, noi avete capito che vogliamo un po' sdrammatizzare questa morte del Papa, e anzi vi diciamo che ci ha colpito, perché però ci ha colpito tanto, diciamolo, cioè abbiamo proprio il dolore a me, dentro. A me veramente. Come il Papa morto, Simo? Come è morto il Papa? È morto il Papa, da mo che è morto. Vabbè, che era 2008, che era? No, tra l'altro, voglio dire una cosa, che noi visto e considerato che il nostro governo, simpatico governo, ha preso la palla al balzo per mettere 15.000 giorni di lutto nei quali non si possono fare eventi e non si può festeggiare. No, non è vero, hanno detto che bisogna essere sobri, però ho visto che c'è stata piaciuta la risposta, ho visto tante, no, ma più che altro perché ho visto tante mani with the umbrella gesture, esatto, tipo, e noi, cioè, no, che poi noi... la risposta di Landini, che non mi sta particolarmente simpatico, però chi è Landini. Dovete fare dei festeggiamenti sobri, dovete essere sobri, e lui ha risposto vabbè, tanto non beviamo, quindi tanto se lo beve tanto non si, cosa del genere. No, comunque voglio dire che invece Runtime Radio il 25 durante la sera, ora vediamo se alle 19 alle 20, perché poi dopo dobbiamo andare a bere, insomma faremo la nostra classica live dove insomma quest'anno gli diamo un tema, poi ne parliamo, sarà il Papa, ne parliamo domani, no il Papa, adesso parliamo stasera, raccontiamo un po' di cose, diciamo parleremo di della nuova liberazione. Comunque ragazzi, io voglio sempre ricordare a fini assolutamente di servizio che il 25 è comunque un giorno sobrio per definizione, perché si festeggia l'anniversario della liberazione, esatto. Ma il giorno, la festa dell'appeso è il 28 di aprile, ricordiamocelo bene. È vero, hai ragione, questo ce l'ho preso. Dell'appeso e testa in giù. Ce lo puntualizzava sempre Lobby Frontali, quando la buonanima dei Lobby Frontali, che evidentemente insomma è lì a far compagnia al Papa da qualche parte, gli tiene la mano insieme a Gusella, cioè Gusella da una parte. Io non lo dico tanto a Pizzi perché forse non se lo ricorda, ma forse Sbano sì. Qual era l'inferno degli appesi a testa in giù, dove c'era ovviamente anche il ben amato Benito, certo, noi abbiamo l'esperto Dai, Walter, dai, che tu lo sai. Non ho capito la domanda, Marco. Da che film è citato l'inferno degli appesi a testa in giù? Grosso guaio a Cena Town. Puccio, bravo. Sì, giusto, sì, giusto. Fulminati da Puccio. Lo so, Puccio non... di cinema non ci capisce un cazzo, ma le citazioni, esatto, che cos'è Grosso Guaio a Cinatown? Non lo so, è un film. Non lo so, però mi ricordo le frasi, pronto. Lui ha letto un libro dove c'erano le frasi, perché ricordiamo che Puccio è quello che legge i libri, la differenza mia, poi perché no, lui è il colto, ma non li capisce. No, guardo anche i film, non li capisco. Lui li ripete a pappagallo, però li impara a memoria. Beh, quello è importante. È come fa ChatGPT, è la stessa cosa. Lui ti dà una risposta, ma non bisogna capirla, ma bisogna darla. Non è che sa quello che ti ha risposto, però la risposta sembra che abbia un senso e tu dici vedi, però mi coglioni, insomma. E vabbè, comunque è morto il Papa, ragazzi. È morto il Papa. Stiamo girando attorno, ma come le mosche. Adesso parliamone. Perché Walter, appunto, insomma, ieri ha fatto una bella puntata. Io oggi non ho potuto sentire che c'era la Lazio. Quindi sapete che tra la trasmissione di Walter e la Lazio, insomma, c'è. Guarda, per poco, ma vince l'altro. No, vabbè, oggi non ho parlato tanto del Papa, ho fatto presente solo che ci sono dei problemini tecnici per il conclave, perché c'è un sono finiti in una sorta di bolla, diciamo così, tecnica, per cui per regole che non si possono in alcun modo aggirare, regola di diritto canonico, non possono esserci più di 120 cardinali elettori. Ok, e fin qui. Il problema è che oggi ci sono 135 cardinali che sono in grado, diciamo, che rientrano nei parametri di poter, per poter votare. E siccome però c'è anche un'altra regola che dice che in nessun modo si possa impedire a qualsivoglia È sempre il Papa che ci accarezza il cervello. Qualsiasi cardinale che rientri nei parametri non gli può essere impedito di votare. Praticamente c'è questa sorta di paradosso per cui nessuna delle due cose si può escludere. Guarda, si può fare, cioè c'è la soluzione, no? Che era anche un po' la soluzione che utilizzavano i faraoni con i loro schiavi. Praticamente si deve portare 15 persone nella tomba. Guarda, il discorso è questo: siccome il limite per votare era di 80 anni, cioè ogni cardinale al compimento dell'ottantesimo anno di età non può più votare. Ok, quindi qui. La speranza, evidentemente, il calcolo che si era fatto Bergoglio era che tanto da qui alla fine di quest'anno dovevano compiere l'ottantesimo anno una decina di cardinali, quindi dicevi vabbè, ma tanto te pare che muoio prima? E invece l'ha fregati tutti. Vabbè, c'è sempre quella. Allora, c'è sempre questa opzione. Però io non capisco sta cosa, mi dovete spiegare. Cioè, nel senso, un cardinale arrivato a 80 anni non può votare perché. Ma può fare papa. Perché? È proprio fare il papa. Esatto. Certo. Cioè, sei stupido. Allora, no, aspetta. Guarda che il papa, questa cosa può sembrare assurda, però l'abbiamo detta ieri. Qualunque maschio che abbia ricevuto il battesimo, anche se laico, teoricamente, tecnicamente può essere eletto papa. Vabbè, questo è come se dice del presidente degli Stati Uniti, che anche il barbone poi diventa presidente degli Stati anche Uniti. Anche della Repubblica, però il presidente della Repubblica in Italia deve aver compiuto, mi pare, non mi ricordo se il 50° o il 60° anno di età, forse 60. Però sì, è così, di fatto è così. Poi è chiaro che per convenzione e per tradizione se lo scelgono tra di loro, però tecnicamente se a maggioranza sui 120 cardinali votanti, 60, la maggioranza qualificata, che non so qual è, dovesse votare per Simone Pizzi, Simone Pizzi sarebbe papa. Mamma mia, ma magari, guarda, magari, poracci. E tu non puoi perché sei sposato. Ah, è vero, io sono sposato. Ah, cazzarola, questa cosa. Vito civile, però. Sbano può diventare papa. Anche io potrei diventare papa. Scusa, Simone, che nome sceglieresti? Io. Paul Camadon. Io invece per il mio papa sarebbe Papa Inclemente I. Inclemente I. Devi essere più creativo, Waldi. Io mi ero scelto, io mi sarei scelto Vercingetorige primo. Bello Vercingetorige, però non sono sicuro che sia stato il primo. Cioè no, c'è stato qualche. C'è stato il condottiero romano. Hai ragione. No, era Gallo, non era Gallo. Era una gallina. Esatto. Quanta becerellarità. Poi ci dicono che siamo i beceri. Vabbè, così. Pensate che io, nel caso, ho scelto anche quale sarebbe la mia prima disposizione papale. Ius prime noctis. Hai tutta questa fantasia. Hai avuto. Mamma mia. la prima disposizione, la prima legge che emanerei è che le prime tre bestemmie della giornata sono sempre abbonate. È vero, è vero, che poi è giusto anche, dai, tutto sommato, no? Perché io farei una legge un pochino più, più importante, quindi basta incularsi i ragazzini. Cioè, mi sembra che è il minimo è metterlo per iscritto, insomma. Allora, ma come minimo? Allora, c'è un problema, secondo me. Perché non è mai successo. Allora, poi parliamo pure un po' del Papa. Però vabbè, finiamo questa discussione che mi interessa. Secondo me, se tu diventi Papa. Sì, parliamo di gente che si incura di casa. Esatto. Se tu arrivi a diventare Papa, non è che puoi proprio fare. Cioè, virtualmente tu puoi fare quello che ti pare perché sei un sovrano. Esatto. Ma secondo me, la minestra di cena è meglio che non te la mangi. No, no, tutto cioè, cibo in scatola, tutto cibo in scatola, assolutamente. Rimediato da te vita. Stesso, cioè, esatto, devi andare tu alla Conad. Ma ci vai la Conad. A fare spesa. E però pure lì non lo sai, capito? Cioè, un consiglio per il prossimo Papa, Globo da McDonald's. Esatto, esatto. Ma però sempre la roba arriva dall'esterno, quindi ci sono sempre troppe mani in mezzo, capito? Cioè, tu devi acchiappare uno e gli dici assaggia un posto lo cheeseburger McDonald's. Tu fai veramente assaggiare il cibo da tutto quanto il Vaticano. Nel momento in cui il prossimo Papa dovesse ripristinare la figura dell'assaggiatore, cominciamo a preoccuparci. Deve capire che qualcosa non va. Esatto. Allora, il problema lo sapete che c'è, secondo me, è che una cosa è le cose che sono ripristinate e non ripristinate o abolite, e una cosa è la realtà. Perché secondo me, a noi che cazzo ce lo dice che... Che in realtà non c'è stato un Cristo là che assaggia la minestra del Papa. Vabbè, ma perché? Ma secondo voi i papi non si creano anche dei meccanismi di garanzia intorno a loro? Certo, certo. Sì, ma certo. Pare che non ci avranno anche tutta una serie di misure per cui se gli succede qualcosa in maniera. Fanno uscire le carte. Esatto, esatto. Tu hai ragione. Però ricordate sempre, Walter, uomo morto. Che il trono di spade ci ha insegnato che il tradimento è sempre dietro l'angolo. Insomma, questa è una cosa importante. Che dobbiamo sempre tenere. Guarda Ratzinger, si è dovuto ritirare così improvvisamente. A proposito di Game of Thrones, da vari ambienti vaticaneggianti si dice che se certe cose al conclave vanno come si pensa, altro che nozze rosse di Game of Thrones. Nozze rosse cardinale. Perché tra Becciu che vorrei cercare di partecipare comunque al conclave e tutta un'altra serie di casini e cavilli, cioè chi, scusa? Che andranno avanti per mesi contestandosi il Becciu ha detto che il Becciu il cardinale Monsignor Becciu, pensavo fosse stato... un parente di Buccio. Becciu, cioè, no. Becciu. No, è l'Umarell Becciu. Che stava lì a fare. E quindi che fa questo, insomma? Comunque l'età media dei candidati è tipo 200 anni da sì. Allora c'è Ratzinger. No, cioè no, l'ho già fatto l'altra volta, che poi io ne vorrei parlare un attimo di questa cosa, perché il papato, diciamo, il papato periodo di Jorge Bergoglio è stato pure abbastanza particolare, diciamo già la verità, perché alla fine non era un vero papa, no? Come molti dicono, stava lì e in realtà l'hanno messo al posto di quell'altro perché quell'altro emanava troppa malvagità. Però secondo me nella sua una grande operazione simpatia. Esatto, hanno provato a dire questo è troppo Palpatine, levamolo. Che poi tra l'altro, ma guarda, secondo me Ratzinger era il pasticcere, la cosa si chiama il pasticcere famoso. Dai, il pasticcere quello famoso, quello di Moretti, il pasticcere Troschi. Ma no, dai, quello che il pasticcere, dai, come si chiama? Il camerlengo, chi è? Wow, porca puttana, quello che va ogni tanto a MasterChef, il pasticcere quello famoso in Italia che è cattivissimo. Ma non c'ho presente. Avete capito chi è? Cioè, vabbè, comunque. Quello che fa golosi di salute. Vabbè, comunque, insomma, tra Ratzinger e sto pasticcere, adesso non ricordo il nome, diciamo c'erano queste. Io non ho capito il parallelo tra Ratzinger e il pasticcere. Si somigliano parecchio. Cioè, si somigliano nel senso anche comportamentalmente. Non l'avete mai visti nella stessa stanza anche, contemporaneamente? No, allora uno era molto più alto. No, ma manco il Papa e Batman ho visto nella stessa stanza insieme. Questo lei vuol dire. Ma neanche. Però hanno gli stessi mezzi, effettivamente. Neanche me e Superman, in realtà, se ci pensate. Perché ricordate che era Superman. Quindi c'è questa cosa, questo papato che nasce già con questa anomalia, no? Cioè, nel senso è. Poi lui arriva che andava insomma in giro in panda, era tutti il padre sei comunista, che cosa è questa cosa della panda? Era un papa un po' aveva tagliato un po' lo sfarzo. Lui aveva Iginio Massari, scusate, bravo, bravo. Massari. Ah, quella merda di Dai, è un po' Ratzinger, dai, secondo me erano fratelli. Non ho mai fatto caso della faccia che avesse, so solo che vabbè. Comunque dicevo, no, Puccio, devi sapere che questo papa ha tagliato un po' lo sfarzo. Si dice che si sia anche tagliato lo stipendio da papa. Poi questa cosa è da verificare. Cioè, che vuol dire tagliare lo stipendio? In che percentuale? Soprattutto i papi hanno lo stipendio. Il papa ha uno stipendio che ammonta, mi sembra, intorno ai 5.500-6.000 euro al mese. E lui se l'è decurtato completamente. Me levate una curiosità? Beh, non completamente, considerando che ha lasciato 200.000 euro in beneficenza. Ce l'aveva da prima quei soldi, ragazzi. È stato comunque cardinale per tanti anni. Sì, ok, vabbè, però quello che voglio dire, no? Quando tu diventi papa, che in realtà sei sovrano fino alla morte, che cazzo ci devi fare con lo stipendio? Infatti, cioè, tanto non è che esci più e vai. Io non ho mai visto un papa uscire il portafogli, per dire, cioè, non c'era bisogno. Questo io non ho mai visto nessun politico, figura di grande spesa. No, però vai al bar, ragazzi, paghi. Aspettate, però, mo ve la trovo su YouTube. Ecco. C'è un'intervista a un ottico di Roma, che è quello che faceva gli occhiali a Bergoglio quando era cardinale, e che dopo che l'hanno eletto papa. Tipo, lui l'ha chiamato per dire: vedi che mi devi fare gli occhiali? E lui: ma sì, santità, sicuramente. E Bergoglio gli ha detto: guarda che te li pago. Sì, sì, no, guarda, questa storia è stata raccontata da un sacco di negozianti lì della zona di, diciamo, di via della Conciliazione, perché il papa i primi periodi di pontificato proprio non se ne faceva una ragione, allora piava e usciva da solo e faceva un po' di casino, le guardie svizzere che si mettevano di corsa il palafreno in testa per inseguirlo, perché quello prendeva e scappava. Il discorso è che aveva questi rapporti con alcuni negozianti, eccetera, addirittura un negozio di dischi molto dove sembra che il papa andasse spesso. Lui sì, comprava i vinili di Edith Kennedy. Probabilmente, cioè, tutti quelli comunque con cui aveva a che fare dicevano che appunto lui insisteva per pagare. Dice tante volte, addirittura l'ottico gli ha detto: ma Eminenza, ci vengo io da lei? E lui dice: no, vengo io, non ti preoccupare. Ha visto il telefono di mamma. Scusate, c'è stata un'interruzione. Dite. E quindi così. Vabbè, comunque, tornando un attimo seriamente. Cioè. No, sì, ma seriamente. Il problema è che Luca dice: ma le prostitute vanno anche pagate anche dal papa. Ma quali prostitute? Il papa se la cava con due bounty. In realtà anche Mister Zero si è fatto la stessa domanda che ho fatto io, cioè che alla fine che ci fa con lo stipendio? Però ora io ci penso, va in eredità i figli. Cioè, di solito. Certo, i famosi figli. Figli di papà. Che comunque, vabbè, insomma. Vabbè, comunque lui faceva tutto sgherzo. In realtà un ereditario, anche un papa ce l'ha, perché se aveva fratelli o sorelle, questi fratelli o sorelle avevano, per esempio, credo che siano morti tutti e due. Posto. Sì, ma anche dei nipoti. No, la sorella ce l'ha, mi sa. Ma comunque, al di là di tutto, anche dei nipoti, cioè, un asse indiretto, comunque, cioè, ce l'hai sempre degli eredi, a meno che non sei proprio isolato dal tuo ceppo genetico. Tra l'altro, secondo me, sta storia delle telefonate ai negozi, secondo me, lo sai chi era? Era quello del Radio DJ. Che telefonava il limitatore con la Savino, che fa l'imitazione, venga a prendere, fallo tu, Gualdi, che sei più bravo. Allora, quello, il telefono all'ottico, pronto? Sono Bergoglio. Volta te l'hai venuto bene. Scusa, ammazza. Ma non me lo ricordo più come parlava. È vero, perché sai perché? Tanto tempo. Perché in realtà, secondo me, è morto prima di quanto noi ci aspettassimo. Ci dice Domenico che l'unica parente in vita è una cugina. Mia cugina. Ah, che era quella in Italia. Mia cugina, amica di tutti. E salutiamo anche Ruggero. Vedi, c'è anche Domenico, incredibile, insomma, stasera grande festa. Comunque, vabbè, dai, io ero rimasto. Allora, diciamo a tutti che è morto il Papa. È morto il Papa, raga. Ma sono venuti per quello, perché il Papa tira, ragazzi, il Papa tira. In che senso? Sai che perché mi sono gelato, perché volevo fare una battuta, ma mi sono autocontenuto. Ma fai male? No, mi sono autocontenuto. No, perché noi scherziamo qua sul Papa che è morto, che povero è morto, e che purtroppo se ne farà un altro. Però, sì, è quello. Però diciamo che alla fine c'è sempre un minimo di decenza e di rispetto che noi dovremmo cercare di tenere, no? Infatti insultiamo quello nuovo, cioè quello vecchio poverino è morto, è andato via, cioè non... Vabbè, quindi a questo, allora durante sto pontificato, cioè abbiamo pontificato, possiamo chiamarlo, perché c'era tanta frocezza, abbiamo detto, allora, ricordate, non gli piaceva la frocezza, perché... piaceva la frocezza, allora, allora, succede, allora tutti l'hanno criticato perché dicevano tu sei troppo frociaggine, tu sei troppo comunista. Allora lui giustamente per compensare, no, cioè per non dà questa immagine che non è ovviamente, e che non è mai stato, soprattutto questa è una cosa importante, e allora ha sparato sulle frociaggini, su Ettore, i frati, sì, e cose, dava like, cioè... su Instagram, insomma. Cioè, perché ricordiamoci da queste cose, insomma. La pagina OnlyFans, del Papa, ma è vero, assolutamente vero. Ma che è vero, ma è vero, ma è vero. Sì, ma cazzo, è vero, Vizio. ma quello è praticamente il social media manager, che però in quel momento si era dimenticato di cambiare account. Ho capito, però insomma, cioè, non è una cosa bella. Perché, ricordiamoci che siamo pieni di professionisti che fanno. Allora, io però vorrei fare una domanda adesso alla nostra chat, perché stanno cercando in tutti i modi di venderci delle cialtronerie tipo anni 70, anni 60, tipo la pellicola colorata che si attaccava davanti ai televisori per simulare. Bellissima, vari colori. Bellissima. L'altra, questa che cos'è, la pagina con tutti gli occhiali super spy, la microspia, il teledominio. Si tratta di un potente potere, il teledominio, un potere fantastico rilevato. Vabbè, allora queste fuori sta memorabilia. Tra l'altro alcune di queste stavano le scimmie di mare, scimmie, no? Di mare, esatto. Allora, scimmie di mare, io allora ne ho sentito parlare da tanti, abbiamo fatto il massaggiatore, ragazzi. Anche una puntata di Quando eravamo futuro, ma io queste scimmie di mare non me le ricordo. Però, erano le gamberette. Sì, ho capito, però al di là di tutto tante di ste robe stavano in tutti quei fumetti che trovavi dal barbiere, quando che poi no, ma stavano ovunque, che poi, ovunque. E poi c'era pure su Topolino quella degli occhiali, ricordiamoci che quegli occhiali c'erano pure su Topolino, e la pellicola che si metteva sui televisori era praticamente una pellicola con quattro strisce colorate, no? E tu mettevi sul televisore in bianco e nero e sta cosa ti dava, che bello, perché c'era il televisore a colori, che non è a colori, è con le strisce, a fasce, esatto. Quindi che ne so, se uno era un po' il colore, cioè un po' il televisore LGBT. Vabbè, ma comunque tutto questo col Papa che è morto, non so assolutamente cosa c'entri, però ragazzi è divertente, perché adesso vi ho postato sulla nostra chat di Lettera Antemoredi un altro gadget famosissimo di quegli anni, che era l'amico inseparabile di tutte le donne, Gigi. In capo, in viaggio, in ufficio, funziona a batteria a 3 volts. La descrizione, perché all'epoca potevi mai dire che cosa era veramente, allora è bellissima la descrizione, perché dice: combatte e aiuta a vincere cellulite, rughe, emicranie, stanchezza, è molto utile come spalma crema, era definito un massaggiatore a punta vibrante. Vabbè, a cosa servisse, però non si poteva dire. Lo sai che se usa ancora però sta cosa del massaggiatore colorato? Sì, però non cioè, lo puoi usare come massaggiatore, cioè nessuno ti dice niente, esatto. Nessuno dice niente. Vabbè, poi massaggi può massaggiare qualsiasi cosa, no? Esatto, dentro e fuori. Il fatto che sia a punta non è importante. Il fatto che sia a punta, insomma, per raggiungere gli angoli. Per raggiungere tutti gli angoli, esatto. Chissà come se li faceva i massaggi il Papa, poverino. Ma glieli facevano le suore, cioè. Le suore. Ma a distanza, facevano lo tipo proprio a distanza. No, credo distanza. Che questa cosa venga spiegata benissimo in The Young Pope di Sorrentino, no? Cioè, grande, non è esattamente un documentario, grande serie. Tutte, Madonna, debole, sì. Tutte e due le stagioni, anche se secondo me la prima è la più bella in assoluto, però pure la seconda non è stata male. Ci sono delle trovate, ragazzi, veramente al limite del blasfemo. Proprio, cioè. Più del blasfemo. Io comunque, fossi Silvio Orlando, cercherei di infilarmi al conclave travestito da cardinale Mogliano. È vero, era super credibile. Era proprio... Secondo me lo eleggo, cioè se si presenta lo eleggo. Ma no, perché lui non era quello che voleva fare il Papa, lui era quello che faceva i traffini, capito? Quello che... Sì, ma poi lui lo fa, cioè fa il Papa di transizione. Sì, dice. Però capito, cioè a lui quello che gli interessava è avere il potere di controllo, che piuttosto che, capito, essere esposto. Che la poi... facciata. Ricordare sempre che essere esposto è sempre un rischio, no? Infatti... Devi sempre assaggiare minestra, invece lui no. I poteri sono sempre dietro le quinte. È vero, quelli che comandano sono quelli. Vabbè, comunque dai, alla fine diciamo non è stato, posso dire che non è stato, mo al di là di tutte le polemiche, quello che si pensava, il fatto che lui è stato anche un collaborazionista, anche se il contesto politico era comunque particolare, insomma diciamo che... scusa, però se De Bergoglio dici collaborazionista, De Giovanni Paolo II che devi dire? ma in generale però si abbracciava Pinochet, cioè, però c'era una certa differenza, perché mentre che in qualche maniera, forse perché è stato nella transizione in cui i media sono diventati importanti, secondo me Papa Giovanni Paolo II comunque in qualche maniera ha lasciato un'immagine, cioè, invece De Bergoglio, che non mi ricordo manco come si chiamava come Papa, Francesco. Papa Francesco, giusto, che ci rimane? Padre Ciccio primo. Che ci rimane? Ci rimane, cioè, tu ti ricordi qualcosa dei partiti, al di là le cose brutte? Ha fatto innanzitutto nascere una cinese, è successo, infatti ha fatto nascere il Covid, quindi con una manata su una cinese, quindi voglio dire. Ah, è vero, cioè, allora poi il problema di sta gente, lo sapete qual è che comunque mentre Carol Wojtyła era relativamente giovane quando è diventato papa, infatti è campato una vita, cioè, nel senso, secondo me metà della sua vita l'ha fatta come papa, poi era uno sportivo, sì. Vedevi, andava a sciare, faceva, quindi tutto sommato si è tenuto quasi anche mentalmente sotto controllo, ma questo la vecchiaia l'ha proprio assalito come è diventato papa, cioè menava gente, diceva delle cose bruttissime, e quindi alla fine tutti si sono detti, ma forse era meglio Ratzinger, che almeno... Però questo verrà ricordato come il papa del marketing, perché è quello che dopo un periodo di perdita di consenso generale ha riavvicinato un certo tipo di persone alla chiesa, perché di peggio, però ma in realtà no, perché tante persone, anche laici, anche atei, continuano insistentemente a riconoscergli un livello di progressismo molto più astratto di quanto fosse in realtà, l'abbiamo detto ieri, cioè lui tante volte ha detto delle cose che però non si sono mai concretizzate in atti pratici, e comunque però si sono concretizzate in atti osceni, questo ci possiamo dire, insomma. Vabbè. Quello lo possiamo sapere. Vabbè, comunque, dai, ragazzi, Papa Bergoglio, Papa Francesco ci lascia, verrà tumulato, non sappiamo dove. Cioè, come no? Dove? Come no? Un cimitero verrà. No, dove? No. A prima porta. Dov'è che lo tumulano? No, Sbano, dici a te che sei esperto. Allora, lui se l'è già fatta preparare a suo tempo, insomma. Allora, starà a Santa Maria Maggiore, se non ricordo male, quindi vediamo un po'. Sì, a Santa Maria Maggiore all'Esquilino. Si era scelto, diciamo, la lapide, praticamente sarà una cosa semplice, ci sarà scritto soltanto Franciscus sopra e niente di... Cioè, si era già portato avanti, insomma. Dici. Sì, vabbè, ma i papi comunque lo fanno. Vabbè, lo fanno. Dovessi morire. Non si sa mai. Vabbè, allora, stasera dice: non è già imbalsamato come un gatto? In realtà sì, perché ovviamente le spoglie verranno ostentate fino a sabato, quindi avrà la maschera di cera apposita sul volto, e un tassidermista ovviamente lo ha acconciato come si deve. Cioè, è stato menato da un tassista, questo abbiamo capito, insomma. Sì. Sì. Vabbè, ma comunque vi dispiace? No. Ma Marco, a te dispiace un po'. Ma me frega il cazzo della chiesa, cioè, della religione. Quindi come può fregarmi? È come un capo di stato qualunque, ecco. Sì, che è più o meno quello che pensano di questi. Allora, secondo me a Puccio un po' gli dispiace. Un po' Puccio, sì, secondo me. Puccio, francamente, non lo sono mai calcolato più di tanto. Vero, questo che dico, cioè, nel senso, magari a livello globale, mediaticamente, forse avrà anche lasciato qualcosa, però proprio a me. Ma perché noi non frega un cazzo? No, a parte, cioè, ok, ma non me ne frega un cazzo manco di quell'altri. Simone, guarda, si dimostra proprio come in che maniera critica è stato giudicato proprio a livello mediatico da quando è morto, è la misura del fatto che lui comunque aveva dato un'illusione di sé che non era particolarmente reale. Quindi comunque sia il Papa quello che, a cui tu, per il quale tanti che non sono nemmeno credenti stanno piangendo, quelli che pensano che abbiamo perso un faro nel buio. che te devo dire, io perplessissimo, però insomma quello che dovevo dire da un punto di vista di ricostruzione della verità, di ripristino della verità storica di chi è stato Bergoglio, l'ho detto ieri, più di questo non so che aggiungere. Sì, no, no, vabbè, ma mo non è che ti ho detto, no, cioè, per dire, nel senso, ne abbiamo parlato, hai fatto bene ed è giusto così, no? Quello che mi fa ridere è che veramente, nonostante che non me ne fregava niente prima, non me ne frega niente adesso, ho più ricordi di Ratzinger che di Papa Francesco. Cioè, di Ratzinger non ne ho idea. Come? Vi ricordate quando scomunicò i libri di Harry Potter? Beh, ma guarda, Ratzinger ha fatto bene. Ha fatto bene. Voleva rimettere la messa in latino, c'aveva cioè sta cosa che andava in giro con le ciabattine de Prada, perché sennò gli facevano male i piedini. C'era tutta una serie di peculiarità abbastanza. Beh, per esempio c'è un'usanza che si usava per i vecchi sovrani papi, che era quello che ovviamente la manovalanza, diciamo, le maestranze, i giardinieri, non si devono rivolgere a lui, ma non lo devono guardare in faccia, lo devono guardare per terra, no? Che era una cosa che ovviamente era andata decaduta un po' come cosa, eppure è un'altra di quelle cose che sembra che lui aveva ripristinato, ma in generale, vabbè, insieme alle fustigate, perché non si aspettava, cioè, alla fine questa cosa. Allora io preferisco più un papa come Ratzinger, che è malvagio e te lo fa capire e tu, cioè, lo sai che è così, e non è che si vergogna di dirlo, piuttosto che un papa che ti vuole costruire l'immagine cristologica. Sì, però, ho sempre detto, Ratzinger era molto più onesto, capito? Può essere ultraconservatore, era onesto, mentre invece Papa Francesco è stato il finto progressista. Però effettivamente, come dice Domenico, una cosa buona l'ha fatta, ha fatto da un punto di vista politico, e non soltanto un bel repulisti, perché è andato a menare per esempio allo IOR, quindi, anche perché da gesuita odiava assolutamente lo sfarzo della ricchezza, e quindi ed è del motivo per cui è morto, ricordiamo. Beh, oddio, se fosse stato quello sarebbe morto probabilmente 7-8 anni fa. Ma è cominciato a morire 7-8 esatto, anni fa. Sbano, tu devi guardare tutto i tempi del Vaticano. Le ombre che si muovono dietro non le tende. Non si può più far morire una persona così dal giorno alla notte, come Papa Luciani. Ma ormai l'hanno usata, capito? Hanno inventato il DNA, ragazzi. Tra l'altro, le tecniche per riconoscere i veri sono migliori. Con Papa Luciani sono stati troppo, capito, spudorati. Allora lì hanno aspettato piano piano un po' decimuro oggi, un po' decimuro domani, perché sgozzando era un po' troppo, era esagerato però quindi. Presi, capito, da tutta questa era di Martin, che purtroppo un po' ci manca, diciamo, un po' ci manca, perché Martin Lutero, tu dici? Martin Lutero, no, Martin di Lutero, di Martin, sì, Martin, ricordiamoci George che Martin, Martin ci manca mentre sta in qualche isola tropicale a scopare le ragazzine. No, ragazzi, ha scritto ha scritto un messaggio sulla pagina sua l'altro giorno, dove ha detto delle robe che io l'avrei preso a ceffoni dalla mattina alla sera. Allora, in pratica ha scritto che non è colpa sua se non ha finito i libri, ma le necessità della vita lo distraggono. Tipo, cioè, ha detto che l'isola Ferlina, sì. Sì, normale. No, ha scritto che purtroppo lui ora sta gestendo, cioè lui gestisce un cinema, ha le cose sue da fare, quindi non. Vabbè, è vecchietto, non riesce a dire, no, ma è poi in realtà non è neanche questo, che poi viene da me la come si chiamano quelli. Vengono le case produttrici a chiedermi di scrivere le sceneggiature, io non posso dire no, quindi il libro sarà finito quando sarà finito. Vabbè, cioè, dai, ragazzi, ma è un vecchietto, niente, fa un cazzo, i soldi l'ha guadagnati, ma che gli fa? Ma non l'avrà scritto neanche lui quel libro. Ma sicuramente il vero scrittore è morto. Ma manco lo sa, è così, manco così. Lo sa quello che deve scrivere, cioè, nel senso, non si ricorda più i personaggi. Io dico, guarda, è meglio così, ragazzi. Secondo me ancora si domanda come cazzo ha fatto a scrivere i primi libri di Game of Thrones. Ma perché non ha scritto lui? Manco. Non ha scritto lui, dai, cioè. Ebbene, non l'avesse scritto lui, avrebbe continuato con i ghostwriter e via, cioè. Allora, ragazzi, no, ma cioè la cosa, scusate, dato che stiamo parlando di altre cose e io devo andare a fare una cosa al volo, facciamo un piccolo break, no, tra la prima parte del Papa, e poi adesso parliamo di tutt'altre cose a cazzo di cane. E dato che la prossima settimana verrà annunciato finalmente il prossimo festival della canzone artificiale, vi faccio sentire una canzone artificiale. Lui si chiama, è un personaggio importante della musica e del cantautorato italiano, lui si chiama Gigio Gregorio, insomma un personaggio importante che ha scritto una canzone che si chiama Sai quanti papi neri, cioè, che però è interrogativo, sai quanti papi neri, cioè, nel senso, mica ce n'è stato uno, perché ovviamente la preoccupazione del fatto che Cioè, ma se parla di Enrico Papi? No, però no. La cosa è che alla fine la canzone alla fine è uscita pure troppo seria. Però la faccio sentire e vado un attimo, e poi torno e ritorniamo. Insomma, parliamo di tutto. Vai a far Papa Nero? Le stronzate, esatto, sì. Vai a far Papa Nero. Dicono che un giorno arriverà da lontano, vestito di nero, l'ultimo sovrano, e tremerà la terra, si spaccherà il cielo, la fine del tempo, dietro a quel velo. Una profezia d'osteria, buona per chi ha fretta di trovare un colore per la sua disfatta. Un uomo nero che spaventa i bambini mentre il mondo brucia qui tra i suoi casini. Ma il nero non è un colore che porti sulla pelle, è un'ombra che striscia sotto le stelle di San Pietro, è il buio che non fa rumore quando il potere si sposa col disonore, è il nero del patto firmato di fretta con l'uomo dal pugno sul tavolo e la camicia stretta, nera di storia che ancora ci pesa mentre si assolveva in chiesa. Sai quanti papi neri dietro il bianco che acceca, quanti silenzi in questa biblioteca di dogmi e di editti, di polvere e santi che non hanno visto o erano distanti. Il nero di chi volta la faccia al dolore, di chi stringe la mano a chi semina orrore, di chi chiude le porte davanti al fratello e lo lascia annegare col suo fardello. Il nero non grida, sussurra indulgenze a chi costruisce muri, a chi vende sentenze. Il nero di un trono che guarda lontano, ignorando la polvere che hai sulla mano. È il nero che teme la scienza e il pensiero, che vorrebbe la donna un passo più indietro, che confonde l'amore con la catena e chiama peccato la vita che è piena. Cantavano un tempo attenzione al Papa Nero, come fosse il lupo cattivo di un incubo vero. Ma guarda le stanze, le logge, la storia di papi imbiancati senza memoria, che han benedetto cannoni e ricchezza dimenticando il Vangelo e la sua carezza. Sai quanti papi neri, amico mio caro, aspettando Godot sotto un cielo d'oro. Sì, quanti papi neri, senza aspettare nessuno. Il nero è già qui da un bel pezzo, ti dico. Silenzio. Allora, secondo me al cantante alla fine gli ha preso tipo un ictus. Probabilmente devo fare una domanda. L'hai fatto tutto il Papa Nero? Non ho capito, scusa. L'hai fatto tutto il Papa Nero? Io? Sì. Sì, no, non dovevo fare il Papa Nero. Ah, no, stavo perdendo sangue. Ah, vabbè. Okay. Cioè. Mi è esplosa una bolla. Ah, okay, ma no, quella è una cosa, è una. Come si chiamano? Le stigmate. Quello è il bergoglio. È una stigmate. Esatto. Stai esatto. Diventando santo. Esatto, Pizzi. Perché secondo ma me. Ma come vuoi essere chiamato? San Simone o San Pizzi? Già te l'ho detto. No, ma no, il santo. Padre Viozzi. Il padre, cioè il prete è una cosa. Io il voglio santo essere chiamato, oh, guarda, o come ti ho detto prima, oppure devi chiamare il priore. No. Se sei un papa, un San priore. Ma se sei un normale, un civile, ti devono dare un nome normale. Io, civile, non te lo inventare. Civile ci siete tre quarti da palazzina tua, prima di tutto. Perché San noi Francesco si chiama Francesco, mi piace la Giorgia. Ruttare mentre ci grattiamo la scella. Quindi tu sei San Pizzi. San Simone. Che poi in un'altra mi ricordo questa cosa in treno. Io ero piccolo, ero in treno con mia nonna, non so neanche so il cazzo dove stavamo andando. E c'era sto prete nel vagone con noi, perché una volta esistevano i vagoni. Aiaiaia. Questo racconto potrebbe prendere una brutta piega. Prete e questo, bambino, e questo prete che mi dice: ciao bambino, come ti chiami? Io mi chiamo Simone. La vuoi la comunione, Simone? No, lui fa, no. Simon Pietro. No, Simone. E io no, Simone Pizzi. Giustamente. E il prete non ha. No, secondo me non ha tirato fuori il cazzo. Secondo me non era Simon Pietro. Era Simon Dietro. Pensaci bene. Va bene. Comunque sull'Erci è uscito un articolo importantissimo, anche se avevamo detto che abbiamo finito, insomma, cioè che troppi papi muoiono sul posto di lavoro. Eh sì. La procura apre un'inchiesta. Ecco, cosa ne pensate? Perché questo è un altro. Beh, abbiamo detto prima, c'è sempre del losco. Esatto. Tutto questo. Perché secondo me alla fine, tra tutti gli intrighi, alla fine ogni papa che muore comunque di vecchiaia inevitabilmente. A parte vuoi dirla, secondo me ogni papa è morto de cose brutte. È morto sul lavoro, esatto. Tranne se vogliamo dire lavoro. Tranne Ratzinger. Vabbè, Ratzinger non è morto sul lavoro, è vero. Però diciamo i recenti sono tutti morti per sopraggiunti limiti d'età, nel senso che sono tutti morti per scadenza e sofferenza, nel senso sono tutti scaduti. Come abbiamo detto ieri sera, erano malati di vecchiaia. Erano malati. Ma parliamo di questo problema gravissimo dell'obsolescenza programmata dei papi. Ma tanto, guarda, il problema è, sai qual è? È che neanche tanto obsolescenza programmata, perché cioè alla fine campano una cifra i papi, cioè nel senso si rovina. Credo, mangiano bene. Sì, però dormono bene. Secondo me Francesco. Papa Francesco, secondo me è arrivato, anzi ci ha avuto un deterioramento quasi istantaneo nel momento in cui è diventato papa, e lì già hai capito che dietro c'è sempre qualcosa di strano, insomma. E quindi alla fine però arrivano, oh cazzo, veramente avevo di là, hanno fatto 20 anni di papato. Di più. Pure di più. Più al 2003, 4 che era, una 25 in abbondanti. Se si è fatto un paio di giubilei. No, lui non solo, credo che sia. Solo quello del 2000, perché prima del 2000 non se ne facevano ogni 3 mesi come adesso, eh. No, ma se fanno ogni 25. Per la gioia di chi vive a Roma. Ma no, se fanno ogni 25 anni i giubilei, dai. Ma dal 2000. Dal 2000, non se, prima non mi ricordo che. Io mi ricordo che si faceva ogni 25 anni. Sì, ma prima non. Vabbè, una papa per forza, perché cioè nel senso è difficile che un papa campa più di 25 anni. Poi dall'altro il papa muore nell'anno del giubileo meno sentito dalla storia dei giubilei, eppure perché alla fine hanno rotto un po' il cazzo, un po' come i film Marvel, dopo un po' ho capito, ci devono mettere qualche cosa di più, tipo ecco, famo morire il papa, che e io, quindi c'è un po' di più di movimento. Io mi ricordo che veramente con quello del 2000, ecco perché ho capito, perché mi ricordo che erano di più, perché secondo quello che è stato stabilito il giubileo ordinario si tiene ogni 25 anni, ma un papa può dichiarare un giubileo straordinario, come ha fatto appunto Papa Francesco nel 2015. Quindi c'è stato un giubileo nel 2000. Manco mi ricordavo che c'era stato un giubileo del 2015, devo dire la verità, però cioè io mi ricordavo quello del 2000 e quello del 25, perché in teoria ogni 25 anni il Papa lo fa per la città di Roma, perché spera che almeno qualcuno qualche strada la metta un po' a posto, un po' di monnezza sparisca, ma non è detto. Alla fine hanno detto tanto sto giubileo non vi ha nessuno, c'hai i sordi. Io quello del 2000, ragazzi, c'avevo la gente accampata sotto casa, cioè è stata una cosa veramente devastante. Vabbè, ho capito, il 2000 era un anno estremamente simbolico, certo. E poi doveva finire il mondo da un momento all'altro, come dei 2000 anni precedenti, cioè, però, nel senso, io non ci credo, però non si sa mai, no? Però ragazzi, era pieno, c'erano le tende dappertutto, io dentro al cortile di casa c'avevo la gente accampata, e nessuno gli diceva niente, perché quanto gli facevi pagare? No, io niente, magari. Tu niente, ma portiere. No, esatto, bravo. Che di imprenditoriale. C'avevo un portiere che era pure mezzo brigante, detto di quindi secondo me quello si è fatta la villa. Può essere pure. Però faccio le pellegrini. Però devo dire che ecco, insomma, quel giubileo lì, da una parte c'era proprio l'aria frizzante, tutti sti giorni. Ma c'erano i marchegiani, scusa? In che senso? Niente, beh, questa era una battuta a Badum. Per quella del portiere? Era un brigante? No, dici, c'era un portiere che era un brigante, ma non c'erano i marchegiani. Eh sì, ho capito, vabbè. Vabbè. No, avanti, posso dire che lo faceva ridere? No. di solito, beh, di solito non ha colpito nel segno, di diciamo che non ha colpito nel segno, ne fai di più belle di solito, eh? No. Comunque, alla fine c'era quest'aria frizzante perché sì, ti rompevano il cazzo, stavano dappertutto, era un'invasione, però secondo me dentro quelle tende per tutta Roma c'era liquido d'amore, che l'estate non d'amore ovunque. Allora ragazzi, nel 2000, non mi ricordo se era il 2001, comunque giù di lì, ci fu proprio il giubileo dei giovani, quello che con tutte le tende a Tor Vergata, e lì veramente gli orgioni con Nostro Signore ci saranno stati. Ah, pure il Signore, sì. Quello sta aperto tutto, vede tutto, sa è tutto. Vero, lui è onni. No, scusa, il giubileo del giovane era la giornata mondiale della gioventù, non mi ricordo però che anno era, forse un po' dopo. No, ti stai a confondere con la giornata mondiale della Juventus, che lì insomma pure l'hanno festeggiata. Ah, Marchegiani non andava bene, ma questa sì. No, fa schifo, anche basta, questa. Basta dire che fa schifo pure questa, non è, fa schifo anche non questa. Bisogna indignarsi. Mi dissocio. Cosa? Mi sono dissociato. Così, non voglio essere disegnato dalla mia famiglia. Non sei più un testimone di Geova, perché tocchiamo tutte le religioni stasera. Vabbè, quindi. Puccio, non è che pure tu, insomma. Sei... Ma credo che ci io sia. Non seguo. Credo quindi. Ci sia della juventinaggine in famiglia. No, mio padre non è juventino tifoso. Mio padre è credente e praticante. Beh, è una roba. Che schifo, posso dire che schifo. O io mi limito a non seguire, ragazzi, però. Però poi lonta della no, c'è questa dieta di famiglia. Quindi? Come? Quanto paga per gli arbitri tuo padre? Quindi non ho capito. Mio padre fa il ginecologo. Ah, quanto paga per le mogli degli arbitri? Ha capito? Signor, come si chiamava? Paccio. Sempre come? Paccio, No. Paccio padre. Sì, perché è seminato parecchio. Ciao Pietro. Dappertutto. No, vabbè, magari poi non ci confondiamo. Comunque, vabbè, guardi, c'è qualche notizia interessante. Ma sulle mettere sono anche senza cellulare, quindi. Aspetta, poi penso che si sia caricato. Scusate, ragazzi, visto che abbiamo toccato l'argomento, in qualche modo c'è un minimo di attualità. George Martin, che ha detto che no, io ho il tempo per scrivere i libri, no, ma io vorrei, ma non posso. Allora, che questa cosa è nota a chi segue un po' le vicende dei libri, diciamo, di narrativa di intrattenimento di genere. Martin aveva assunto due tizi che venivano familiarmente chiamati nei forum di schiavi perché lo aiutassero a scrivere i romanzi mancanti di Game of Thrones. Due poveracci, giusto? Due poveracci, esatto. Che erano stati assunti. Allora, i due poveracci, rendendosi conto che era letteralmente, cioè che li stavano pagando, ma a vuoto, perché questo non scriveva, hanno cominciato a sfruttarlo, e loro, nel periodo in cui Martin non ha scritto un solo romanzo di Game of Thrones, hanno scritto sei romanzi di una serie che Simone piace, la serie TV, che è The Expanse. L'hanno finita, ci hanno fatto quattro stagioni di una serie TV scrivendo loro le sceneggiature, e ne hanno iniziata una nuova, il cui primo libro è uscito da qualche settimana. Facendo dita media a George Martin. Tra l'altro gli ha fatto anche gioco questa cosa, perché la pubblicità comunque che derivava dal fatto che erano dai collaboratori, gli schiavi di Martin, esatto, di Martin, e comunque in qualche maniera si pensava che c'era un po' la mano di Martin dietro, come se no, assolutamente lui hanno detto no lui... lo so però voglio dire... anzi lui gli ha detto di non usare gli stilemi suoi, cioè è stato molto, vabbè, diciamo, ha che detto, non fate che mostrano nello spazio, vabbè, c'è un po' di trono di spade nello spazio, c'è, cioè, comunque non è che non c'è all'inizio un pochino, un po', sì, poi dai, comunque tutta la politica, la parte insomma che lo rende... Ma più il fatto che dei capovolgimenti di fronte improvvisi, cioè... Però devo dire, è stata... Ho iniziato a leggere i libri e ho adorato la serie, comunque. Mi dispiace per l'ultima stagione, che si vedeva proprio che era tirata un po'... Infatti tante... Sì, vabbè, gliel'avevano chiusa in faccia. Sì, poi infatti tante cose sono rimaste... Nella speranza... No, se vuoi ti posso dire i libri come finisce. No, sta buono, non ci penso da solo, guarda. Va bene, Sbano, invece tu che ci racconti? Ma che stavo guardando in questi giorni, un po' di cosette recuperate qua e là, perché da quando non ho più Netflix, soprattutto alcune cose, diciamo, devo abbeverarmi a delle fonti, come dire, torrenziali, un po' questi One Piece. Gli amici, eccetera. E per esempio, vabbè, stavo recuperando un po' di cosette, però soprattutto sto cercando di tenermi in pari con The Last of Us, che penso starete vedendo anche voi, la seconda stagione. Non mi aspettavo che, ma manco per sbaglio spoiler, No, spoiler no, dai. Però non mi aspettavo che quello che è successo nel secondo episodio sarebbe successo così presto nella serie. Me lo immaginavo che avrebbero procrastinato un po' di più. Però è successo. Allora, diciamo che loro per ora sono sempre stati aderenti. E questa cosa della cosa che succede all'inizio è aderente anche questo, perché tutto sommato alla fine è proprio nella prima parte del gioco che succede. Del gioco. Che... diciamo sì, però vabbè, magari sì, c'è uno scorrere del tempo perché percepisci diversamente quando guardi la serie. Perché, videogioco, sì, perché poi giocando traccheggi, cose, vai in giro, però quello, insomma, sì. In realtà poi alla fine sono quelli. E narrativamente succede così all'inizio proprio. Quindi. Ovviamente ci saranno ancora molti flashback perché ci sono delle parti che sono state messe. Esatto, però esatto. Io vorrei parlare delle lezioni di Michela. Parla della No, diciamo che sono delle parti che sono state messe anche perché c'è un motivo. Nel gioco tu hai il tempo per empatizzare sia con una parte che con l'altra, perché ricordiamo che la storia di The Last of Us è che nessuno è buono, non c'è un buono nella storia di The Last of Us, insomma, no? E quindi alla fine ognuno ha le sue motivazioni, ognuno ha la sua rabbia, ognuno è cresciuto in un universo dove comunque o t'ammazzo io o tu m'ammazzi te, e quindi tutto sommato ci sta. E tu giocando, diciamo, con un personaggio, giocando con quell'altro, alla fine ripercorri determinati tracce narrative della cosa che poi ho spiegato anche a Michela, perché lei giustamente non si capacitava, ha reagito malissimo alla cosa, e in effetti visto dall'esterno, cioè nel senso, comunque lo posso anche comprendere, perché pure io ci ho avuto lo shock nel momento in cui mi è capitato di affrontare una determinata cosa, però poi alla fine andando avanti capisci determinate cose. Oggi ad anni di distanza dico dentro di me quello che è successo c'è sta, per quanto per me possa essere stato anche magari un dolore, no? La cosa interessante invece della serie è che quest'anno perlomeno all'inizio hanno aggiunto, diciamo, una cosa che non c'è nella storia del gioco, che però anche quella c'è sta. Eh sì, perché praticamente nel momento in cui quella persona lì vive quella cosa lì, ed è praticamente succede a metà, quell'altro evento lì. No, infatti lui lo vede, quindi c'ha la pena per una cosa, la pena per un'altra. Esatto. Perché dice, cazzo, ma lì ci sta Ellie pure, Macella, quindi che cazzo. Infatti, a un certo punto lui dice, prima che succeda quello che succede, dice, mo ci manca solo che muore il Papa. Esatto, esatto. Ma infatti era perché loro sapevano che era morto il Papa, sono andati sulla torre per accendere i fuochi, per avvisare tutti quanti, ha preso fuori tutta la città, insomma, il macello. Comunque, vabbè, mo al di là di tutto, io ho sempre detto, no, perché mi ha scritto in privato oggi, ah, ma quella cosa che è successa, mi ha scritto una persona, cioè, vabbè, raga, ma vivi in un mondo post-apocalittico, dove ci sono delle creature infette che come te sentono te zompano addosso, e tu stai lì mezzanotte a fare I sing in the rain, I sing in the rain, insomma, prima o poi qualcosa succede, no? E penso che non è stato quello il problema. E non è stato manco quello il problema, però comunque hanno fatto bene, sono divertiti, però gli giravano intorno, stavano lì, capito? Poi hanno inventato una cosa che io non mi ricordo se c'era nel gioco, anche se forse sì, che è questa cosa di questi infetti che in qualche maniera trovano una metodologia di sopravvivenza. Ah, quello sotto sì, ci sta, ma che si mettono sotto. Quella dei cumuli c'era, però pure il fatto che facevano l'agguati. Gli stalker, sì, ci stanno. Mi ricordavo pure questa cosa qua, insomma, tutti dicono. Sì, però che forse un po' hanno esagerato in certe dinamiche, tipo quando a un certo punto cercano di fare irruzione e non ci riescono, a un certo punto gli viene una sorta di raptus, prendono e cambiano strada e vanno da un'altra parte, come se ci fosse un senso logico in quello che fanno. Lì forse era un po' esagerato, C'è un senso logico. Nel senso, c'è una ratio, come posso dire, c'è una... a differenza del gioco c'è una specie di mente collettiva, perché l'hanno detto, sì. Insomma, che sono tutti collegati, quindi in qualche modo il fungo dice, ah, vai di là, quindi sì. Tutti si muovono. Questo però già dalla prima stagione hanno introdotto questo elemento già dalla prima stagione, che è differente, nel gioco non c'è questa cosa, e tutto sommato... Alla fine dai un livello in più alla questione. Poi può anche non piacere. Vorrei capire una cosa che succederà più avanti. Prego. Perché qui non ci sono le spore. Non c'è come il videogioco che si devono mettere le maschere. Non c'è, non c'è le spore, ma c'è la radice. Cioè, comunque quello che ma si propaga. Ma loro hanno visto le radici del Cordyceps dentro lì e se sono comunque preoccupati. Esatto, quindi perché, E infatti qui ci hanno sgamato. No, il problema è che non ci sono le spore, è che a un certo punto succede che c'è una situazione in mezzo a un ambiente pieno di spore, a qualcuno gli si rompe la maschera e questa persona dice no, ma sta tranquillo, tutto a posto. Ed è un momento anche cruciale, vorrei capire come lo trasformeranno, perché non essendoci le spore ci fanno l'eternata su Netflix. Come? Ho detto ci fanno l'eternauta su Netflix. Un'altra cosa, che c'entra l'eternauta? Era per dire l'eternauta parte su, perché l'eternauta parte da questo racconto di questa sorta di neve bianca che non è una neve, che se te la respiri ti fa stare contento e felice. Ma quella è un'altra neve, no, forse ho sbagliato, quella della proprio. Colombia, dove è il film sudamericano? Se spiega tutto, se spiega. Esatto, l'eternauta mi pare fosse argentino. Cioè, qui ci stanno. Comunque, sono curioso di vederlo l'Eternauta quando esce a fine mese, tra poco. Comunque, vabbè, dai, per ora le prime due puntate carine, non male. In chat Luca S ci manda uno screenshot, dice da un finale di stagione delle Squadre di Sbarco. Provate a vedere se i nomi vi dicono qualcosa quando non avete da fare. Il problema è riuscire a leggerli. Ah, io leggo Alfa, bravo Charlie. Vediamo, zoomolo. Allora, Draper, Akbar, è Alien. Shepard, molte sono citazioni, probabilmente sì. Ah, Shepard è coso? No, c'è un Ripley, signori, quindi è Alien. Vabbè, non è perché c'è un Ripley. Basta, è Alien. Basta. Ripley e. No, vabbè, le iniziali dei nomi sono diversi, chiaramente, non sono. Vabbè, però sì, comunque si legge il cazzo, mo voglio dire, cioè, nel senso. Oh, vabbè, comunque. Non ho capito nemmeno da che cosa è tratta questa screenshot. Perché non so, Squadre di Sbarco, non so che cosa. Ce lo puoi anche dire. The Expanse, ok. Ok, no, vabbè, non. C'è Akbar. Allah Akbar. C'è di tutto, da Blade Runner a Mass Effect a 2001. Sì, ti ho detto, c'è anche. Secondo me c'è anche Mad Men, perché Draper. È Donald Draper di Mad Men, c'è Shepard. Draper è proprio. Draper è la marziana, comunque. Quindi l'unico personaggio che ci deve stare per forza. Rogan Eye. Comunque Akbar è l'ammiraglio Akbar di Guerra Stellare. Esatto. Esatto. No. Sono tutti. Sono tutti. Hicks, che è una ciappola. È una ciappola. Anderson. Una ciappola con la ciappola. Ragazzi, oggi sono uscite le prime tre puntate della seconda stagione di Andor. Cazzo! Domani è giornata. Allora se la andiamo a sparare subito. Sono tre, non una. Non due, ma ben tre. I Gualdi se ne sparano almeno una. Due, dai. Tre. Bene, avevo tre. Date tre. Ragazzi, tra l'altro, se ho capito bene. Certo, posso dire una cosa? Dopo. Posso dire una cosa? Così, ritornando e chiudendo un attimo la cosa della Stovase. La scena. E quando Abby passa sotto la rete, che poi tra l'altro c'è una scena simile anche su The Walking Dead, tra l'altro. Vabbè, con gli zombie, che altro puoi fare? Sì, però ragazzi, c'è stato il momento in cui si stringeva sempre più. Io un po' il senso di soffochio ci ho avuto. Vuol dire che è fatta bene. Cioè, nel senso, dai cazzo, ma tu immagina una situazione del genere, porca puttana. Brutti stronzi. Vabbè, niente, volevo dire solo questo. Comunque io spero dopo di questo basta serie con gli zombie, film con gli zombie, perché ci hanno rotto i coglioni. C'hanno tutti i zombie. Ma a me i zombie mi piacciono, raga. Purtroppo se ne è fatto troppo un abuso da The Walking Dead in poi, se ne è fatto un abuso. Non c'è mai un abuso. Sì, poi no. Tra l'altro poi sono zombie senza contesto. Tu quelli di The Walking Dead non sai esattamente da dove cazzo escono, ti dicono delle cose vaghe. No, ti dicono che c'è sto virus e che ti dicono che c'è stato un virus, che no, non solo sul vago. Cioè, no, non solo. Sono zombie scientifici, non so quelli del. C'è un virus che sono tutti infetti, tutti, nessuno E a qualcuno sviluppa la malattia. No, quando muori automaticamente tutti? Sempre tutti. Sì, lo dice Luna. Persa. Tutti sono tutti infetti. Ecco perché loro lo scoprono, per esempio, all'inizio, quando vedono a un certo punto, vedono un accampamento dove ci sono tutti i corpi bruciati e si rendono conto che tutte quelle persone non sono state né morse, non hanno segni di aggressioni dello zombie. E quindi poi dopo, alla fine, guardi, tu lo ricorderai sta cosa, quando muore la gente. Tutti diventano zombie. Tutti. Però se ne accorgono in prigione, quando praticamente uno che stava male muore, esatto. E che si comincia a mangiare tutti quanti, esatto. Quindi lì, muore per cazzi sua. E anche se nel fumetto era ancora peggio, perché essendo in prigione praticamente fanno amicizie con i prigionieri che erano rimasti, tra cui un serial killer, ma non sapevano che era un serial killer, e decapita due ragazzini proprio così, tanto per, vabbè, però lì ci sono altre storie sulla e se ne accorgono, perché questi ragazzini morti decapitati comunque le teste cominciano a muoversi, dice, aspetta un po', ma scusa, ma qual è il problema, dove esatto, stanno sì, i zombie, sì. E lì capiscono, no su quello è l'unica cosa figa. Il problema è che ovviamente The Last of Us, The Walking Dead è una di quelle storie che proprio per questa ragione qui non c'ha un finale, cioè è impossibile. Dall'altro sta uscendo l'ultima stagione dopo un po' di anni che non usciva, con il ritorno di Rick, vedremo poi come va a finire. Insomma, in realtà io ho letto morte. Il finale del fumetto, che non so se coinciderà con quello della serie, che tutto sommato, come dire, dai spoiler, boh, penso che, serie, no, penso finita, che a un certo punto l'autore semplicemente ha detto la chiudiamo così, sì, ma per forza, e come la finisce, perché non è, cioè non è una cosa che puoi dire, bene, vacciniamo tutto il mondo. No, ma non è quello, ma è proprio come la finisci una storia così. È come ho sempre detto, è una storia talmente senza speranza che alla fine a un certo punto la chiudi e basta, cioè non c'è altrimenti. Io sono d'accordo con Walter sul fatto che a un certo punto c'è stato un abuso, no, di sta cosa dei videogiochi e anche delle serie TV. È vero pure che poi a un certo punto di avventure grafiche della Telltale. Esatto, e c'è stato un vuoto a un certo punto, cioè nel senso. Quindi questo ritorno di The Last of Us e The Walking Dead, comunque in qualche maniera, anche se vabbè, The Last of Us poi è comunque un'altra storia, alla fine parla dell'uomo bastardo, cioè fondamentalmente. Comunque, vabbè, dai. Ah, scusate, per un certo senso, no, per quel che sono le mie poche conoscenze in ambito zombistico, The Walking Dead somiglia un pochino di più come approccio a The Stand, all'ombra dello scorpione di Stephen King, dove alla fine ragazzi sono morti, cioè c'è stata l'influenza, c'è stato Captain Trip, sono morti, non potete fare niente. Quindi non c'è un arco di redenzione, cioè è morto il 90% della popolazione mondiale, non si può fare diversamente, cioè è andata così, punto. Quindi quello che succede dopo sono opere di ricostruzione, forze contrapposte che si scontrano, ideologie diverse che combattono uno contro l'altro. Poi The Walking Dead... peggio, perché secondo me è completa, per quella che è la mia esperienza più con i videogiochi che con la fede, onestamente. In The Walking Dead ti manca proprio la speranza che questi prima o poi si risolvano. Sì, esatto. Cioè, secondo me sono diventati così tanto abituati a quello stile di vita che l'idea di una ricostruzione della società, non dico come era prima, ma anche in modo diverso, non c'è. Ma loro le ricostruiscono anche le comunità. Il problema è semplicemente che, al di là del 90% della popolazione, l'unica cosa veramente realistica in queste storie è che quando muore tutta sta gente dovrebbero esplodere centrali nucleari. Dovrebbero succedere tutta una serie di cose che di solito non le vediamo, no? questa cosa la... Però il problema in The Walking Dead in generale, la storia, è che anche quando tu hai costruito la comunità sicura non sei comunque al sicuro, perché tu vai a dormire con tuo marito e tuo marito durante la notte ti prende un infarto e tu sei spacciato, cioè, esatto. Basta, cioè, non... cioè devi avere dei protocolli comunque di sicurezza, per sì, protocolli, non puoi ognuno dormire deve dormire dentro una cella, esatto, cioè, devi dormire anche dentro una casa chiusa, cioè non c'è bisogno di... sì, vabbè, ma hai capito cosa voglio dire, nel senso... Però, cioè, don't open dead inside, sì, don't open dead, no, don't dead open inside, esatto. Vabbè, comunque dai, poi che altro hai visto, Sbano, recentemente? Ma allora ho approfittato per riprendere una serie che si chiamava The Diplomat. Avevo visto originariamente la prima stagione quando ancora avevo Netflix. Sto periodo mi sono trovato un po' a girovagare. Ho visto la seconda stagione, che era quella la storia di questa diplomatica americana che diventa il ambasciatore americano nel Regno Unito, e succedono varie cose con Kerry Russell, che è la biondina che è stata poi in precedenza protagonista anche di The Americans. Ah, bello. Una serie sì carina, con begli intrighi politici. No, The Americans, questo... no, The Americans è fenomenale. The Diplomat, diciamo, per essere una serie Netflix. Sì, The Americans era quello che loro sono russi, no? Sono comunisti, ok. Dormiente, un cazzo. No, dormiente, sono attivisti. Dormiente è un bel par di palle, fanno di tutto. E... no, quando viene fuori la storia dell'utero a farfalla, io stavo morendo. Minchia, si è andato. Anche solo vagamente così, vabbè, niente. Vabbè, sì. E poi che altro ho visto? Guarda, in realtà un po' di cosette le ho viste. guarda, vediamo un po', perché vado a vedere la lista. Io vi vorrei consigliare una roba, ma è improbabile, cioè dovete veramente pescare nei torrenti e non esiste, manco subita da quello che ho scoperto. Se vi va, c'è una serie in due stagioni, animata, americana, ma animata bene, che si chiama The Pantheon, ed è basata su una serie di racconti di uno scrittore di fantascienza latinoamericano, che è Ken Liu, che è l'autore dei del racconto su cui presero quel film con Jodie Foster sugli alieni che comunicano e che non hanno lo stesso concetto nostro del tempo. Scusate, non mi sta venendo il nome. Contact, che in originale è le storie della tua vita. Il racconto si chiama così, poi l'hanno Contact. No, non è Contact, è quello con Carl Sagan, quello con Jodie Foster, dove c'è anche Jeremy Renner, Occhio di Falco. Madonna, non mi sta tenendo. Ah, male. Non con Jodie Foster. No. Tu stai dicendo Arrival. Arrival. Jeremy Adams. La copertina. Sì, è quello, Arrival. Scusate, hai ragione, non è Jodie Foster, è con Jeremy Adams. Sì, con Jeremy Adams, scusate, colpa mia. Allora, Pantheon parla non di intelligenze artificiali, ma dell'upload delle coscienze, cioè la possibilità di trasferire la mente umana o un suo duplicato, a seconda di come la vedete filosoficamente, all'interno di un sistema informatico, e di come un atto del genere possa avere delle conseguenze enormi sotto tantissimi punti di vista, di come si aprono concetti legati all'etica del tipo sarebbe come se le intelligenze artificiali in realtà fossero coscienze uploadate, farle lavorare per noi sarebbe una forma di schiavismo. Quindi come potrebbero reagire una volta che se ne rendono conto? Perché sostanzialmente una coscienza uploadata collegata a internet è letteralmente una divinità. Come interagirebbero tra di loro, se ci possono essere scontri tra ideologie differenti? È animata, ma animata bene, ed è doppiata meglio da attori famosi. C'è un problema, non doveva essere caricata su Netflix in Italia, non si capisce perché, l'hanno annunciata ma non si è mai vista, quindi se la state cercando dovete ricordare. Come si chiama questa serie in ogni caso? Pantheon. Col TH. Pantheon, una stagione, 8 episodi. C'è uscita la seconda. Stagione 1, 22, 23. E poi c'è la seconda che è finita da poco. C'è una caricatura di Steve Jobs con i superpoteri che non è niente male. Se potete guardare. Mai sentita. Bella, bella. E io spero che traducano i racconti da cui è stata tratta in italiano, perché so tra le poche cose di Ken Liu che non hanno tradotto. Ci hanno interrotto, hanno tradotto pure la lista della spesa di Ken Liu, ma quello no. Stagione. Groceries. Beh, interessante. C'è anche una pagina in italiano, ma non c'è. Sì, una wiki ho visto, no, da qualche parte. Non c'è in Italia sta serie. Provate a chiedere. L'avevano annunciata su Netflix, perché Italia. Non è ancora uscita, insomma. No, l'avevano annunciata come tra due giorni la mettono su Netflix Italia, mai vista. Quindi. Ah, beh, lì c'erano avuto qualche problema. Ho avuto un rodimento di culo e l'ho trovata, però. Sono andato negli Stati Uniti. Cioè sei andato in America? Sì, sì. Ho fatto due settimane, l'ho vista. Che poi posto, mi sembra di capire che la prima stagione si trova anche su Prime Video, sempre in America. Non sì, sì. La seconda non credo che sia su HBO, ma guarda già. Non lo so, non è chiaro dove. Se fosse su HBO sarebbe solo su HBO. Invece pare che ci sia pure su Netflix, ma non probabilmente. Non è disponibile in Italia, ma credo che altrove ci sia, quindi non è una produzione originale di qualche piattaforma, si trova un po' in giro. No. C'è il trailer su Prime Video, allora è stata in America, è andata in onda su AMC Plus, quindi c'ha a che fare con Sony, e di solito la roba AMC, però, che tipo anche Breaking Bad eccetera, si finisce su Netflix, quindi la distribuzione internazionale. Vabbè, comunque se vi capita buttategli un occhio. Ah, ma è una serie animata questa parte. Sì. Detto. Un'altra serie che affanculo un po', il tema della traslazione della coscienza informatica, e poi ricorda anche Upload. ce ne sono mille. L'altra, quella con, su Netflix, che poi nella seconda stagione Altered Carbon. Altered Carbon, esatto. E su Prime è uscita prima una stagione meravigliosa, seconda stagione è una molto meno, molto meno. Vabbè, però leggetevi i libri, ragazzi, di Altered Carbon, se potete. Un'altra serie che è uscita in questi giorni su Prime Video, che è simile, che parla sempre del fatto che in un futuro prossimo c'è questo Restoration Institute, che praticamente permette alle persone di resuscitare dalla morte se questa avviene in modo innaturale, quindi se muori per cause naturali no, ma se vieni ucciso o cose del genere puoi essere diciamo così restaurato in un altro corpo, purché i dati che vengono backuppati alla tua morte vengano aggiornati ogni 48 ore. Altrimenti quindi perdi 2 giorni, esatto, sì, nel senso se i dati non vengono aggiornati ogni 48 ore la persona comunque morirà per sempre. E sono curioso di vederla, però non ho capito bene di che nazionalità è, perché mi sa che è argentina, non lo so, i genitori hanno dei cognomi non riesco a capire se sono dell'est o se sono dell'ovest o se sono tedeschi fuggiti in Sud America. No, perché hanno dei nomi che non riesco, anche sì, potrebbero essere tipo Pripke, no, c'hanno tipo Hitler, no, Hitler no, però aspetta, lo definiamo dalle lingue, Mengele, sì. Mengele. Una serie della Repubblica Ceca probabilmente, perché su Prime Video si trova in italiano e in lingua ceca, quindi probabilmente sapete che mi avete ricordato, visto che abbiamo citato Altered Carbon, no, visto che abbiamo parlato pure di problemi di diritti, perché questa cosa me la sono approfondita, se vi ricordate nella prima stagione di Altered Carbon l'intelligenza artificiale dell'albergo dove finisce il protagonista era bellissima, sì, era Edgar Allan Poe, sì. Era Edgar Allan Poe, problemi di diritti. Sì, e invece nel libro è Jimi Hendrix ed è pure meglio. Sì, è vero, ma la sapevo sta cosa. Peccato, perché secondo me Jimi Hendrix ci stava meglio in quel contesto. Vabbè, è un po' come la storia di quando hanno fatto la trasposizione non proprio fedelissima di Land Dog americana, quella con... quella con Jimmy Olsen, quello che faceva Jimmy Olsen nel film di Superman, ho capito, quella con sì, c'era Superman, no. C'era Brandon Routh e quello che faceva Jimmy Olsen lo stesso, sì, okay. Esatto, problemi di diritti non si è potuto fare l'immagine di Groucho Marx e quindi c'era sto zombie insensato c'era il maggiorino, poi è proprio strana pure sta cosa perché i diritti di quello, sì, i diritti compra tutto il pacchetto. No, ma i diritti d'autore sono una questione anche legata alla scrivono in cui al media con cui prendi. Se non sbaglio, sì, loro non potevano citare i fratelli Marx in un'opera cinematografica, mentre invece nel fumetto probabilmente sì, in un libro, anche perché c'è il diritto di corta citazione. Vabbè, comunque Pantheon viene considerata come una serie cancellata, che ha trovato sì, dopo la seconda stagione tantissimi problemi nella distribuzione, anche per colpa del fatto che questi qua sono minuscoli praticamente. È stata anche cancellata dalla piattaforma originale, proprio l'hanno ostracizzata sta serie. Che cazzo gli succede? Peccato però, perché è proprio bella, un po' triste. Ma, ripeto, in realtà nelle altre nazioni i diritti ci sono, cioè sia su Prime Video, se tu vai a cercare su internet è indicizzata sia su Netflix che su Prime Video, però se poi vai a cliccare in Italia ti dice questa serie non è disponibile nel tuo paese, però se avessi un IP americano lo vedresti. Comunque a causa di questa situazione complessa gli accordi con le piattaforme interessate in Italia è diventata troppo complessa e bla bla bla bla bla bla bla bla. Ah, peccato, perché vabbè, insomma ragazzi, se questi si sono anche perché affronta temi tipo la zappa sui piedi, anche perché parla di insomma roba non proprio serena, tipo l'accettazione del lutto, cioè se tu perdessi una persona cara e scoprissi che in realtà l'hanno uploadata su internet, no, come la prenderesti? Ci sono delle serie televisive, ancora lui. Sì, ci sono delle serie televisive che ti dicono che se te muore un parente a te ti dispiace, questo è incredibile. No, ma incredibili scoperte. Oddio, dipende dal parente. Però non è neanche detto. Infatti, infatti, è vero, è vero. Per caso, avere un parente che ti sta sulle palle su internet è anche un problema. Perché magari te può manco fare una sega in pace. Perché quello viene a guardare. Hai visto? Allora, lo sai che tu hai tirato fuori. Hai tirato fuori un tema interessante. Hai tirato fuori che qua che tira fuori. Quando ero ragazzino. E ti toccavi? E pensavi sempre che c'è stato qualcuno mi toccavo, cioè, no, mio nonno. No, cioè, avevo paura di essere giudicato da mio nonno che sapeva che no, ma guarda che tuo nonno comunque ti guardava, ma non ti giudicava. Non ti toccava pure lui. No. I nonni lo fanno, mio nonno era il mio eroe, mio nonno. Sta zitto, sennò ti spacco tutto. Lo so, ma i nonni sono così, purtroppo. I nonni sono così. Soprattutto quando muoiono, ti guardano. Sì, credo. Oppure c'è stava il nonno di una mia cugina che diceva che quando sarebbe morto sarebbe arrivato tutte le notti a tirargli i piedi. Cioè sei un pezzo di merda, nonno. Esatto, ma poi è tornato a tirargli i piedi. E non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché io poi non ci ho più parlato con quella cugina. Perché è caduta dal letto ed è morta. Comunque ragazzi, tirato giù, radio di servizio, ci sono buone possibilità che con questa sera l'Inter si sia giocata il triplete prima ancora di cominciare, no, perché Milan sta vincendo 2-0. Vabbè ragazzi, però dai, tutto perché il 5 maggio è tra 10 giorni, vabbè, c'è la gara di ritorno, è Coppa Italia, vabbè, Coupe d'Italia, vabbè, ma poi comunque sti cazzi è l'Inter, infatti, era per dire il calcio, vabbè ragazzi, c'è fatta una certa. Allora ragazzi, ce ne andiamo verso la chiusura, verso la porta di uscita, e ci dirigiamo verso chi a dormire, chi a studiare, chi a lavorare, chi a fare all'amore. Esattamente, succo d'amore per tutti, pure chi a farsi, anche chi farsi le pippe con nonno che guarda, dice, infatti abbiamo imparato che nonno ci guarda mentre io ci tocchiamo, ti giudico, esatto. Il papa avrà dei figli e probabilmente guarderà anche lui i figli. E beh, perché lui dice fammi vedere che stanno a fare i figli. No, era meglio, era meglio che non. Che bello questo figlio. Ma che figlio cazzo. Proprio no, basta, guarda. Mo ti chiudo il microfono. Comunque, grazie a Marco Gualdi. Ciao, è stato bello parlare di morti. Dovremmo farlo più spesso. Più spesso. Vi ricordiamo che il 25 faremo la diretta. Seguite il nostro canale broadcast su Telegram Runtime Radio, dove ovviamente saprete meglio e con precisione orari e cazzi e mazzi. Ma soprattutto seguite anche la nostra diretta Runtime, che è la nostra chat, dove potete interagire con noi durante le dirette, ma anche durante tutto il resto del giorno, dove potete tranquillamente chiacchierare di qualsiasi cosa. Ma ricordatevi, come dice sempre il buon Gualdi nei suoi podcast, quando entrate in diretta Runtime presentatevi subito, perché c'è l'uomo con le scarpe di ferro che vi dà subito un calcio al culo, e questo non è mai una cosa carina. Il nostro Sbanobot. Oggi è bello che oggi è entrato uno che non ci ha neanche provato a essere una persona. Come si chiamava Sbano? Non mi ricordo. Fatto il fatto che è entrato tipo alle 2 di notte, io quando mi sono svegliato troppo tardi Sbano. Nel frattempo ha rubato i dati di tutti. Ragazzi, io vi devo dire una cosa, io un po' di tempo che tengo sott'occhio un membro, detta così è bruttissima, e non è il tuo, che non è il mio, esatto, che ogni tanto si logga sul canale, perché si vede insomma che tra quelli connessi sembra guardarsi intorno, ma poi non ha mai scritto. Vabbè, poi mi dici chi è, perché magari è un timido. Io lo tengo d'occhio. Poi me lo dici comunque. Ad esempio, guarda, tra l'altro, è uno che è in linea adesso, che ha come nome Eli Daniel, che ha come nickname WWLANXYXYJ. Un po' strano, però vabbè, comunque ringraziamo e salutiamo Walter Sbano. Solo una domanda, ma chi è morto? È il papa. Ma quale? Quello da mo che poi è morto. Comunque Walter, domani sera ci sono le orazioni? Pare di sì. Quindi domani sera ore 20, Runtime Radio, le orazioni della sera, e ovviamente in replica come domani mattina alle ore 6. E salutiamo e ringraziamo anche Puccio, Carmine, Console. Ciao. Che ricordiamo che i suoi podcast vanno in onda dal 2016 in loop. Si chiama Pop Podcast. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. mondiale, cappeggiato da un maiale. O la stanza dei bottoni, dove giocano i ricconi. TV, film ed ultima ora, la serata si colora di notizie e dicerie. Molte sono fesserie, ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner. Non c'è ancora. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.